si sente un po' giù di morale e quindi le cose tecniche hanno deciso di scioperare, sono in sciopero tutte le macchine, l'internet soprattutto, insomma non stiamo andando in diretta, però siccome noi Wombat siamo sì un po' moge ma comunque siamo dei panzer, comunque the show must go on, e quindi anche se non ci state ascoltando in diretta potrete ascoltare almeno me in podcast, perché comunque non funziona la diretta ma funziona la registrazione, e quindi non tutto è perduto. Questa puntata ve la faccio lo stesso, la registro lo stesso e ve la farò poi sentire, ve la programmerò nelle repliche così che la possiate ascoltare in altri orari e ascoltarla anche in podcast. Vi ricordo da dove la potete ascoltare in podcast, ovvero dal nostro sito wombat.noblogs.org. Probabilmente già lo fate, già lo sapete, ma può darsi anche che invece siete degli abitué delle onde medie, o per quello che ci riguarda più giusto sarebbe parlare di onde mediocri, ovvero in particolare la nostra frequenza 1359 AM è quella che frequentate, una frequenza che frequentate, oggi sono veramente birichina, magari la frequenza che frequentate abitualmente, e quindi sapete che sebbene il suono è questo suono un po' ovattato delle onde medie, comunque lì stiamo, lì ci potete trovare. Vi ricordo anche, già che ci sono, a darvi le informazioni così tecniche burocratiche, vi ricordo anche la nostra mail di contatto posta@insiberia.net. Insomma, adesso avete un po' tutte le coordinate e sapete come trovarci, dove trovarci e quant'altro. Allora, siamo partiti dagli Smiths, inconfondibile la voce di Morrissey, con Cemetery Gates, non perché la puntata di oggi è dedicata ai cimiteri, cioè perché ho capito che ho detto che il Wombat è mojo, ma non così tanto, cioè vi ho anche detto che i Wombati sono dei panzer, no, non è dedicata ai cimiteri, ma è dedicata alla poesia, ai poeti, e questa canzone è esattamente di quello che parla, o perlomeno è un viaggio accompagnato da alcuni poeti, vengono citati espressamente John Keats, Yeats e anche Oscar Wilde, non a caso, perché insomma è abbastanza evidente che la musica degli Smiths e poi anche dopo nel suo viaggio solista di Morrissey, la musica di questi personaggi è stata evidentemente molto influenzata da questi poeti. E giustamente gli Smiths gli rendono un po' omaggio dall'album The Queen is Dead del 1986. I meet you at the cemetery gates, Keats and the Yeats are on your side, while Wilde is on mine. E beh, e ci stava, direi, è abbastanza esplicativo tutto ciò. Poeti e poesie, chiaramente sarebbe riduttiva, cioè lo è, dichiaro subito che è una scaletta assolutamente poco esaustiva, riduttiva, lascerà indietro rimpianti, lascerà un sacco di pezzi scoperti, di cose di cui potevamo parlare, poeti, voci. Perché? Perché ovviamente la musica è intrisa di poesia, è poesia se stessa spesso, e quindi si potrebbe dire che i musicisti, forse quasi tutti o comunque moltissimi, si ispirano alla poesia. Alcune poesie in particolare ne fanno delle canzoni proprio in maniera precisa e diretta, oppure si ispirano a dei poeti, a un'atmosfera di alcuni poeti, oppure invece le loro stesse musiche, i loro stessi testi sono in qualche modo delle poesie, e quindi insomma il rapporto tra questi due mondi è evidentemente strettissimo, evidentemente si sta parlando di un oceano di possibilità. Ma chiaramente il mio tempo è limitato, non è che posso fare una puntata di 6.000 ore, quindi ho dovuto fare delle scelte, delle amare scelte. Sono partita dagli Smiths e continuo con Donovan, cioè che è abbastanza bizzarro, mi rendo conto, ma ci stava perché Donovan ha interpretato una poesia di Yeats all'interno della sua canzone The Song of Wandering Angus, che è la canzone di Angus l'Errante. È una poesia pubblicata nel 1899 nella raccolta The Wind Among the Reeds, Il vento tra le canne, di William Butler Yeats, che abbiamo già citato fra l'altro all'inizio grazie al rimando degli Smiths e che continueremo a citare all'interno di questa scaletta perché, beh, va fatto, va fatto. Angus è il dio dell'amore all'interno della mitologia irlandese. È un giovane eterno, una sorta di Peter Pan o anche di un Cupido del resto, eternamente giovane, insomma, regnante vicino alle rive del fiume Boyne. Chissà se il mio gaelico è un po' così, e si narra che a un certo punto si innamorò di una bellissima fanciulla vista in sogno e, innamoratissimo, malato d'amore, la cercasse a lungo prima di trovarla e portarla poi finalmente nel suo regno. Però in realtà questa è un po' la mitologia intorno alla figura di Angus, ma Angus che non è quello degli SDC, forse non si legge neanche Angus, ma insomma è un altro. Però all'interno della poesia di Yeats invece il personaggio è un po' diversa la cosa. Il personaggio è un giovane mortale, probabilmente si tratta di un rimando autobiografico, forse lo stesso Yeats, alla ricerca dell'ispirazione, dell'ispirazione poetica, di una musa, o anche del lato più ancestrale della conoscenza, ecco, perché Yeats un po' ci sentiva per queste cose. E quindi questa poesia narra dell'iniziazione di questo poeta, di questo, insomma, mortale comunque, un'iniziazione al passato che mentre invecchia sta lì a ripensare al passato, al mondo antico, in una perenne ricerca della bellezza, a un certo punto riesce all'interno di questa ricerca a trovare un'illuminazione poetica attraverso questa fanciulla con i boccioli di melo tra i capelli. Quindi muse, poesia e ispirazione sempre attraverso le donne, perché comunque i poeti sempre lì andavano a parare, o spesso perlomeno. Beh, non tutti ovviamente, ci mancherebbe, però molti, ecco. Questa poesia è stata, diciamo, messa in musica un po' da tutti. Non è Donovan, ovviamente, non ha scoperto niente. Il primo, fra l'altro, che l'ha messa in musica è stato lo stesso Yeats. Compose una musica e gli adattò insomma, una melodia tradizionale irlandese. E no, ciò non deve stupire, perché nella musica irlandese, soprattutto a inizio secolo, nell'Ottocento, andava molto, c'era un qualcosa di la poesia e la musica erano molto intrise, erano molto... cioè avevano un legame indissolubile. In realtà lo hanno anche un po' adesso, ma insomma al tempo ancora di più forse. E nel 1907 proprio lo stesso Yeats stampò questo saggio, Speaking to the Psaltery, dove recita questa poesia in maniera bardica, cioè come fosse un bardo, cantandola, quindi declamandola un po' più che altro, con l'accompagnamento del salterio. Questo fu un po' la prima volta, ma poi in realtà moltissimi altri artisti si lasciarono ispirare da questo testo, che poi a sua volta parlava della ricerca dell'ispirazione, e composero ulteriori canzoni e musiche lasciandosi guidare da questo testo e da questo tema, ecco. E uno tra questi è Donovan. I went out to the hazelwood. Because the fire was in my head. Cotton field, a hazel wand, and hooked a berry on a thread. And when white moths were on the wing. And moth-like stars were flickering out. I dropped the berry in a stream and caught a little silver trout. When I had laid it on the floor, I went to blow the fire aflame. But something rustled on the floor, and someone called me by my name. It had become a glimmering girl with apple blossom in her hair, who called me by my name and ran and faded through the brightening air. I am old with wandering through hollow lands and hilly lands. I will find out where she has gone and kiss her lips and take her hand. Walk among long dappled grass and pluck till time and times are done. The silver apples of the moon, the golden apples of the sun. Come mi piace questa pronuncia che ha Donovan. Ma non tutti i poeti sono stati così fortunati. Beh, in realtà pochi poeti sono stati fortunati in vita, perlomeno. Ma diciamo che ce ne sono alcuni in particolare che non c'è stato verso, perché non sono stati apprezzati neanche da morti, non è che proprio poetastri. E ce ne cantano di un poeta del genere, ne cantano le gesta, le Bachelorettes, con Poet From Nowhere, l'album Cry Is For The Flies dal 2014, un pezzo che tra l'altro secondo me avrebbero potuto benissimo comporre gli Sparks, io ce li avrei visti tantissimo, e parla di un poetastro incompreso, preso in giro da tutti, che proprio non gli va bene, non gliene va dritta una, e non sì, porello. Thailand, Thailand, Thailand, Thailand, Thailand, Thailand, Thailand, Thailand, Thailand, Thailand, Thailand, Thailand, Thailand, Thailand, Thailand, Thailand, Thailand, Thailand, Thailand, Thailand, Thailand, Thailand, Thailand, Thailand, Thailand, Thailand, Thailand, Thailand, Thailand, Thailand, Thailand, Thailand, Thailand, Thailand, Thailand, Thailand, Thailand, Thailand, Thailand, Thailand, Thailand, Thailand, Thailand, Thailand, Thailand, Thailand, Thailand, Thailand, Thailand, Thailand, Thailand, Thailand, Thailand, Thailand, Thailand, Thailand, Thailand, Thailand, Thailand, Thailand, Thailand, Thailand, Thailand, Thailand, Thailand, Thailand, Thailand, Thailand, Thailand, Thailand, Thailand, Thailand, Thailand, Thailand, Thailand, Thail arriviamo a un brano di ben altro tono, ecco, diciamo, sì, qualcosa di completamente diverso, anche se le Bachelors io le ascolterei tantissimo, mi piacciono un sacco, ma dobbiamo cambiare e proseguire parlando di un personaggio molto importante come Antonin Artaud. Antonin Artaud in realtà sarebbe, non è che possiamo definirlo un poeta, ma d'altronde, chiaramente appartiene al mondo del teatro, ma il mondo del teatro, il mondo della poesia sono anch'essi, come quello della musica e quello della poesia, sono anch'essi legati saldamente, quindi è un po' difficile spesso dire dove inizia uno e dove inizia l'altro, forse è anche inutile, onestamente. E quindi io ce l'ho infilato lo stesso, Antonin Artaud, grazie Bauhaus, che ce lo raccontano ampiamente nel loro brano, che si intitola esattamente Antonin Artaud, un brano del 1983 nell'album Burning from the Inside. Artaud, tra le varie cose che possiamo dire di Artaud, innanzitutto c'è da dire che aveva una visione particolare della parola scritta, del testo e del teatro, quindi poi riteneva che il testo in qualche modo avesse finito con esercitare una tirannia sullo spettacolo teatrale in particolare, ma spettacolo in senso lato, e spingeva invece per un teatro integrale che comprendesse e mettesse un po' sullo stesso piano tutte le forme del linguaggio, fondendo il gesto, il movimento, la luce, la parola. Quindi a maggior ragione chi più di lui poteva sapere di cosa si parlava quando si parlava di poesia. All'età di 4 anni Antonin Artaud fu colpito da una grave forma di meningite, alla quale poi dopo furono attribuiti tutti i problemi neurologici di cui Artaud soffrì in seguito, in particolare nevralgie, balbuzie, episodi di depressione grave. Artaud quindi, non perché adesso succeda diversamente, ma al tempo, figuriamoci, Artaud subì direttamente, ovviamente, una lunga serie di ricoveri in sanatorio, con una pausa di 2 mesi tra il giugno e il luglio del 1916. In sanatorio per la meningite, ma poi vedremo che purtroppo negli ospedali ci sguazzò e non solo per la meningite. Durante questa pausa in cui non era in sanatorio, si arruolò nell'esercito, dal quale però venne scartato presto per episodi, peraltro pare autoindotti, di sonnambulismo. E durante questi periodi che Antonin Artaud trascorse in sanatorio, lesse ferocemente Rimbaud, Baudelaire e Edgar Allan Poe, tutto ciò si nota e si trova moltissimo nella sua poetica. Nel maggio del 1919 il direttore del sanatorio gli prescrisse il laudano, e da lì precipitò un po' nella dipendenza a vita dagli oppiacei. Una bella pensata che ebbe questo direttore del sanatorio. D'altronde erano un po' questi anni, ma il laudano andava per la maggiore già nei 10 anni prima, quindi insomma, perché no? Nel marzo del 1920, quindi poco dopo, un anno dopo, Artaud si trasferì a Parigi. E lì trovò i surrealisti, trovò un movimento che stava esplodendo, interessantissimo, bellissimo, a cui lui non poteva non aderire in maniera subito entusiasta. Iniziò a interessarsi di teatro e tutto sembrò bello, se non che abbandonò qualche anno dopo il movimento surrealista, quando questo movimento decise l'adesione al Partito Comunista francese, decisione molto sofferta all'interno di tutto il movimento surrealista, e però d'altra parte ci furono grossi scontri tra le varie anime di questo movimento, in particolare un po' le due, quella più politica comunista, più legata al partito, e l'altra anima più libertaria poi di fatto, e anche in qualche modo un po' meno rigida e più fantasiosa, sui surrealisti si notava molto questa dicotomia. Dopo viaggi, scoperte, sperimentazioni, droghe, molte avventure, insomma, nel 1936, di ritorno all'Irlanda, Artaud venne arrestato, bloccato con una camicia di forza e riportato in Francia, internato in diverse cliniche dove fece, insomma, stette per un bel po' di anni e sperimentò angoscia di tutti i tipi, fame e tra l'altro 51 cadute in coma da elettroshock, il tutto più o meno nel corso di 9 anni fino al 1945, quindi 9 anni di inferno fondamentalmente. A un certo punto, sul finire di quegli anni, difende e racconta Van Gogh, un altro matto come lui, semplificato e rinchiuso in scatole sbagliate in qualche modo. E nel marzo del 1948 Artaud morì da solo nel suo pavillon, seduto di fronte al letto con la sua scarpa in mano, forse per una dose letale di cloralio. Yeah. unrequited love's a bore. So, it all stands in the bathtub. Queen of Sheba takes a bath in this bathtub every day. Dishes, toothbrushes, cockroaches, cockroaches, coffee cockroaches, stove cockroaches, city cockroaches, spot cockroaches, melted cheese cockroaches, flour cockroaches, chaplain cockroaches, peanut butter cockroaches, cockroach, cockroach, cockroach of the eyes. Cockroach, mirror, boom, bang. Yeah, throw it. Yum. Like. The strange thoughts you young people have. Questa era la voce di Jack Kerouac. Cockroach leggeva, declamava, cantava in qualche maniera in un album Beat Jazz volume 1 del 2010, un album uscito nel 2010 molto molto interessante e bello, ve lo consiglio di procurarvelo in qualche modo. Così come i musicisti sono legati ai poeti, l'abbiamo detto inizio trasmissione, è vero anche il contrario in qualche modo. E se Kerouac era legato a un genere, sicuramente quel genere era il bebop. Scrivere bop è un libro, che anche questo ve lo consiglio, un librettino piccolo uscito qualche anno fa, molto interessante, si trova anche in italiano tradotto, dove Kerouac racconta in modo insolitamente teorico e lineare per il personaggio la propria poetica, essere dentro le cose invece di parlare delle cose, afferrare tutto ciò che i sensi percepiscono, sincopare, boppare la scrittura, improvvisare sulla pagina come faceva Charlie Parker al sassofono. Questo è un po' quello che dice, pensa e che fa Kerouac, e non per niente la musica e la poesia sono così legate in lui e in tantissimi altri poeti e musicisti. Proseguendo nella nostra scaletta arriviamo a Leonard Cohen, ci doveva entrare ovviamente, anche qui avremmo potuto parlarne in maniera abbastanza indiretta, perché la poesia dentro i testi di Leonard Cohen è, insomma, è ovunque, ma c'è un brano in particolare che è un po' più cioè ha un rimando un po' più preciso, più diretto, che è Alexandra Living, un brano del 2001, quindi relativamente recente, dall'album Ten New Songs. Alexandra Living è una canzone ispirata alla poesia La divinità abbandona Antonio, del poeta greco Konstantin Cavafy. Un poeta di fine 800, inizio 900, pubblicata a inizio secolo nel 1911. Il poeta, appunto, Cavafy, si riferisce a un racconto di Plutarco che narra di come Antonio, assediato ad Alessandria dalle armate di Augusto, avesse sentito il suono di diversi strumenti e voci attraversare la città per poi svanire nel nulla. Questo in qualche modo per lui era il simbolo della partenza del dio Bacco, Dioniso, che dir si voglia, che aveva fino allora protetto Antonio, lasciando quindi presumere la caduta della città. Differentemente in realtà dalla poesia, dal poema, Cohen non è così didascalico, ma si riferisce a una donna chiamata Alexandra e non alla città greca. E racconta, a proposito proprio della genesi di questa canzone, racconta questo: ho cominciato questa canzone a Idra, a scrivere questa canzone a Idra nel 1985. La prima versione andò perduta in fondo a un cassetto fino a quando non la ritrovai e cominciai di nuovo a lavorarci alla fine degli anni 90. Nella primavera del 2001, di quest'anno, l'anno dell'intervista, la canzone era pronta. Degli innumerevoli versi iniziali ne sono rimasti solo 9. Mi è piaciuto molto di non aver citato Costantin Cavafi e il suo grande poema come ispirazione della mia canzone. In effetti credo non ce ne sia traccia nell'album, ma in qualche modo la citazione non comparve sull'album, sebbene abbia parlato della connessione tra la canzone e la poesia in molte interviste. Il lavoro di Cavafi mi ha commosso e ispirato per molti anni, anche mentre scrivo questo messaggio, questo racconto, questa intervista, c'è un'immagine di lui sopra la mia scrivania. Suddenly the night has grown colder. The God of love preparing to depart. Alexandra hoisted on his shoulder. They slipped between the sentries of the heart, upheld by the simplicities of pleasure. They gained the light, they formlessly entwined. Radiant beyond your widest measure, they fall among the voices and the wine. It's not a trick, your senses all deceiving. A fitful dream, the morning will exhaust. Say goodbye to Alexandra leaving. Then say goodbye to Alexandra lost. Even though she sleeps upon your satin, even though she wakes you with a kiss, do not say the moment was imagined. Do not stoop to strategies like this. As someone long prepared for this to happen, firmly to the window, drink it in. Exquisite music, Alexandra laughing. Your first commitment's tangible again. And you who had the honor of her evening, and by that honor had your own restored. Say goodbye to Alexandra leaving. Alexandra leaving with her Lord. Even though she sleeps upon your Saturn, even though she wakes. Vediamo di riprenderci un po', tirarci su un po' di morale con il prossimo brano, che per fortuna è un brano dei Television, quindi non può che andarci bene. 1880 or so, beh sì, io ho un po' un problema con i numeri grossi in inglese, quindi ve lo caso in italiano perché non mi ricordo come si dice. Tom Verlaine è il cantante di Television e già penso che già solo per questo, per il suo nome, meriti di stare in questa scaletta dedicata a poeti e poesia. Però non c'è solo questo, perché Tom Verlaine scrisse questo testo di questa canzone ispirato dalla lettura di una rivista per casalinghe che pubblicava poesie mandategli dai lettori. Poesie tendenzialmente orrende, a detta sua, diceva, c'erano tutte le sfumature possibili di trash, ma allo stesso tempo chi le aveva scritte le scriveva chiaramente prendendole molto sul serio e con tutte le buone intenzioni. Mi ha fatto riflettere sulla semplicità. E l'album da cui è tratto questo brano è Television, bellissimo peraltro, del 1992. This world quite without a care. in the long twilight. The star falls down on the hill so white. Pop, sembrava Tom Verlaine in questo brano, ma invece la chitarra era inconfondibile, direi, una bellissima chitarra. E visto che stiamo, questa puntata di Slick Chick è proprio intrisa nella cultura, proprio immersa nella cultura, e so che voi ascoltatrici e ascoltatori di Radio Wombat siete persone di un alto grado di cultura, insomma elevati culturalmente, moralmente e quant'altro, mi preme ricordarvi di un'altra cosa che non vi ho mai detto in trasmissione, ma i più attenti e attente di voi si saranno, cioè, se ne saranno già accorti per conto loro, di questo nuovo progetto che è nato da qualche tempo, non tantissimo, da un mesetto o poco più, che è il NEMA, Next Emerson Museo autogestito presso ovviamente l'omonimo Next Emerson, cioè sia Next Emerson in quel di Castello, a nord di Firenze, e progetto che vede un allestimento continuo di mostre temporanee e permanenti all'interno dello spazio occupato, quindi fuori, dentro, in mezzo, sopra, sotto, ovunque, per dar vita a un concetto di arte che non sia quell'arte polverosa che sta nei musei, che per carità averne, me non ci sputo mai, ma è bello, è importante che ci sia anche un'arte vissuta all'interno dei posti che frequentiamo abitualmente, che viviamo e che trasudano energie e rumori e casino, caos e bellezza. E quindi questo vuole fare il progetto NEMA, appunto Next Emerson Museo autogestito, e vi invito a guardare il sito nema.noblogs.org, dove ci sono tutti i dettagli e le mostre in corso e quelle in arrivo, tra cui la prossima mostra a cura di Ribellarti, del progetto Ribellarti, un altro progetto fiorentino molto interessante che esiste ormai da qualche tempo, e che è in arrivo dal 9 al 23 febbraio, mostra che si intitola Riconoscete qualcosa? Un oggetto non appare mai come interamente dato, la soggettività gli attribuirà sempre un giudizio, motivo per il quale, in seguito ad una prima visione, le proiezioni e le combinazioni che si apriranno alla nostra mente sotto forma di ricordo e immagine saranno ricche di particolari dati dalle nostre emozioni, trasferimenti di significato attuati individualmente da ogni persona, i quali all'apparenza potrebbero sembrare completamente estranei. Ecco quello che abbiamo voluto dunque fare, dare spazio alla nostra visione, sottolineando che la realtà non è sempre reale in quanto tale, ma può essere plasmata, manipolata sotto ogni punto di vista. Detto questo, continuiamo nella nostra scaletta, siamo quasi a fine, e lo facciamo con DJ Fastcut, che ha in maniera piuttosto letterale, direi, si è guadagnato il diritto di entrare in questa scaletta, perché ha scritto un brano che si intitola Poeti Estinti, e peraltro anche il titolo dell'album del 2017, Dead Poets, dove un album molto interessante, dove DJ Fastcut si fa accompagnare dalla qualunque, fondamentalmente ci sono featuring con moltissimi musicisti, cantanti, rapper, producer, insomma c'è un po' di tutto.

quello che invece stiamo per ascoltare adesso, tratto sempre dall'album Beat Jazz volume 1 del 2010, è la voce di Gregory Corso che declama in qualche modo Bomb, un inno alla bomba, famosissima poesia di Gregory Corso. Un inno alla bomba, dicevamo, le cui parole sono scritte in una forma di fungo atomico. Non so se vi è mai capitato di vedere proprio scritta questa poesia, è scritta così, come avrebbero amato fare i futuristi. Ma più dei futuristi, direi un bel po' più di loro, Corso teme e sbeffeggia il non futuro preparato dalla civiltà. Bomb, you are as cruel as man makes you. And you're no crueler than cancer. All man hates you. They'd rather die by car crash, lightning, drowning, falling off a roof, electric chair, heart attack, old age, oh bomb. They'd rather die by anything but you. Death's finger is freelance, not up to man whether you boom or not. Death has long since distributed it's categorical blue. Beh, ci mancano due brani per arrivare in fondo a questa scaletta. Il primo di questi due è di Chet Baker, Deep Arabesque. Perché? Perché è tratto da un album bellissimo che vi consiglio, anche questo moltissimo, che si intitola Chet on Poetry, dove Chet Baker interpreta, legge e canta o suona poesie di Gianluca Mauri e Maurizio Guercini. È un album ormai raro e di culto, quindi vi auguro di averlo, vi auguro di riuscire a trovarlo, ma se no vi tocca sentire la versione digitale. Registrato in Italia, in mezzo a quella sorta di comunità che aveva adottato un Chet Baker malconcio e calpestato, ne abbiamo parlato già altre volte in altre puntate di Slick Chick. Registrato un anno prima della sua morte, quando ad Amsterdam, in circostanze mai chiare, cadde dalla finestra della stanza d'albergo dove alloggiava. And brave love and flesh, and to no one belongs anymore. This is intense, always too light, always light. More than pain, mirth is divided, and nothing for you is more unbearable than that I have been for yourself, more than yourself. The woman of your heart is too intense, too light. Thank you. is a light, true light. Siccome siamo stati fino adesso, siamo stati molto tranquillini, no? Non so se siete d'accordo con me, quindi direi di chiudere con un po' più di caos e di casino, quindi chiudiamo con gli Zeus e con questo video appuntamento a martedì prossimo, sempre intorno alle 8, spero in diretta, mi auguro in diretta o altrimenti in differita durante le repliche che trovate via via disseminate nel palinsesto del Wombat insieme alle repliche delle altre trasmissioni di questa radio e, o altrimenti in podcast, insomma come vi pare. Vi do appuntamento appunto a martedì e vi saluto con questa degli Zeus, Giacomo Leopardi si intitola, perché a volte, ma direi proprio solo a volte, per raccontare certi poeti non c'è bisogno di parole.